Allora, ora adesso è predefinito anche il secondo, perché ho fatto il tasto destro e l'ho pizzicato anche il secondo, va bene? Ora dice, ora vediamo se facendo, no, non devo cliccare su Transmit, no? Ora proviamo a suonare. No. Transmit, però. Se io mi vedo a sinistra, Pindolfi Street.